concomitanza con la notizia che in tutta Europa è diventato illegale commercializzare prodotti cosmetici testati su animali e a meno di un anno di distanza dal blitz di Montichiari e la liberazione dei cani di Green Hill, giovedì 7 marzo gruppi di attivisti animalisti si sono precipitati ai cancelli della RTC di Pomezia, un laboratorio tossicologico di proprietà della Menarini, perché in rete era circolata la notizia dell'arrivo di 8 cani beagle dal Belgio che sarebbero stati sottoposti a vivisezione. Gli attivisti hanno addirittura fermato camion sospetti per strada e li hanno costretti a mostrare chi o cosa contenevano. L'8 marzo, cioè il giorno dopo, la Menarini ha dichiarato di rinunciare alla sperimentazione su quei cani e li ha messi a disposizione per l'affido a privati. Ne parliamo con Stefano Cagno, un medico, anzi un dirigente medico ospedaliero di Desio e Vimercate in provincia di Monza, impegnato da sempre nel movimento contro la vivisezione. Con Stefano vorremmo commentare la velocità con cui Menarini ha alzato bandiera bianca. E ci viene da chiedere, ma il movimento antivivisezionista sta veramente cominciando a far paura? La Menarini acquista 8 cani beagle che sono arrivati dal Belgio perché non li possono più comprare da Green Hill a Montichiari, cioè dall'Italia, e appena è circolata la notizia che questi cani dovranno finire in un laboratorio per esperimenti, c'è stato un movimento così forte dal punto di vista della gente, potrei dire un movimento popolare, che l'industria, pur di smorzare i toni, ha rinunciato immediatamente ai cani e si è dichiarata disponibile a cederli a chi li volesse adottare, quindi ad associazioni animaliste, antivivisezioniste o quant'altro. Questo credo che sia veramente la prova che il movimento antivivisezionista oggigiorno fa paura. In Italia fa sicuramente paura. L'impegno che noi ci abbiamo messo, appunto, Green Hill a Montichiari, o la campagna che è tuttora in atto contro l'Arlan a Correzzana, che è un'industria che detiene delle scimmie che dovrebbero finire di nuovo per esperimenti di sezione, tutte queste campagne in Italia hanno stimolato anche molte altre nazioni europee a fare altrettanto. E questo fatto di cronaca, devo dire che al di là degli 8 cani, che io sono molto contento, ma io sono convinto che la Menarini li ricomprerà in qualche altra maniera, ma la cosa veramente significativa dal punto di vista forse anche simbolico, possiamo dire, è che hanno alzato bandiera bianca immediatamente. Le industrie chimico-farmaceutiche sono sempre state abbastanza ambigue, perché spesso hanno detto, ma sì, sappiamo anche noi che non sono così attendibili, ma la legge ce lo impone, quindi in fondo non è colpa nostra. Quindi l'impressione è che questo loro approccio critico verso gli esperimenti sugli animali sia più strategico che altro, e ribadisco, anche questo è un segno dei tempi, nel senso che si sentono in obbligo di tacitare le proteste dell'opinione pubblica. Lo sviluppo dei metodi sostitutivi parte da una volontà politica ed economica di investire sulle tecnologie del futuro e non continuare a dire ci sono gli animali, ha sempre funzionato, che poi non è vero, ma prendiamolo anche per buono, ha sempre funzionato e quindi continuiamo così. Credo sia un approccio ben poco scientifico. Domani, 15 marzo, alle ore 12:30, nell'aula 7 del padiglione 3 del nuovo ingresso Careggi, ci sarà un incontro dal titolo Metodi alternativi e sostitutivi alla sperimentazione sugli animali, per una ricerca al passo con i tempi. Interverranno la dottoressa Candida Nastrucci, biologo molecolare, dottore in biochimica clinica all'Università di Oxford e specializzata in alternative alla sperimentazione animale, il dottor Massimo Tettamanti, chimico, consigliere scientifico dell'associazione ATRA e coordinatore europeo del centro iCare, e la dottoressa Costanza Rovida, consulente chimico aziendale e membro di CAT Europe. Ulteriori informazioni le potete trovare sul nostro sito restiamoanimali.wordpress.com oppure inviando un'email all'indirizzo metodi sostitutivi tutto attaccato @gmail.com. Vi aspettiamo! Now let's Sabato prossimo, sabato 16 marzo, ci sarà una manifestazione un po' particolare a Lucca. Ne parliamo con Pablo, un attivista del gruppo antispecista toscano. È particolare perché è il primo flash mob che viene organizzato dal gruppo antispecista toscana e vuole appunto sensibilizzare l'opinione pubblica sul consumo di carne, in particolare sul massacro degli agnelli che avviene ogni anno in occasione delle festività pasquali. Abbiamo pensato che fosse più incisivo creare una performance un po' più particolare. Quindi abbiamo scelto Lucca come sede, anche perché Lucca è una città un po' chiusa magari a queste istanze nuove. Senti, come si svolgerà il flash mob? Partirà alle 16 da Piazza San Michele. Sarà un flash mob su tre piazze centrali della città. Alle 16 saremo lì in Piazza San Michele, alle 17 invece saremo in Piazza Grande e poi alle 18 in Piazza Anfiteatro. Chi verrà a vedere il flash mob, che cosa si deve aspettare di particolare? Non diciamo tutto perché sennò togliamo la sorpresa. Sarà una performance abbastanza toccante. Chi vuol partecipare può venire tranquillamente a vedere. Se si vuol partecipare un po' più in prima persona, io consiglio di venire vestiti di nero. Comunque chiunque volesse venire, semmai può dare mano a volantinare, a dare materiale informativo. Sì, sì, sarà anche una giornata incentrata sui temi cari, diciamo, ai movimenti animalisti, antispecisti. Perfetto, allora ci vediamo sabato. Restiamo animali? Certamente restiamo animali. No limit.